Jeffrey Brown è un pastore battista che negli anni 90 esercitava il suo ministero a Boston. La città era in preda a un movimento di violenza giovanile terribile. Jeffrey è riuscito a mettere in atto quello che è stato poi chiamato il miracolo di Boston, riuscendo a diminuire del 79% la violenza giovanile in quei quartieri. Come ha fatto a raggiungere quel risultato? Attraverso l'ascolto. Ma torniamo un pochino indietro. Quando Jeffrey si è reso conto di questa situazione così drammatica, ha pensato di dover far qualcosa. Ha iniziato a predicare la pace, la soluzione dei conflitti, ma i protagonisti di queste violenze non andavano ad ascoltare i suoi sermoni e allora ha deciso di uscire fuori. Ha capito che se voleva incontrare questi ragazzi doveva andare ad incontrarli là dove vivevano di notte. Jeffrey parla di tutto questo in un magnifico TED Talk, una conferenza in cui racconta la sua esperienza. Vi lascio poi il link in descrizione. E Jeffrey dice che a un certo punto cominciò a fare quello che i predicatori solitamente non fanno, ovvero cominciò ad ascoltare invece che a predicare. L'esperienza di Jeffrey Brown ci insegna che attraverso l'ascolto nel conflitto potremo raggiungere risultati straordinari. E in particolare Amy Cuddy, nel libro Il potere emotivo dei gesti, raccontando tutta questa storia del reverendo Brown, elenca 5 motivi per cui all'interno dei conflitti l'ascolto può veramente fare la differenza. Nel bel mezzo del conflitto noi ci illudiamo che tenendo in mano le redini del potere potremmo trovare una soluzione che sia più adatta a noi. Quando noi invece ascoltiamo, apparentemente stiamo cedendo potere, ma il paradosso è proprio questo, che cedendo il potere in realtà diventiamo tutti più potenti e riusciremo insieme a trovare una soluzione migliore. Primo vantaggio, ascoltando noi generiamo fiducia. Senza fiducia non può esserci soluzione del conflitto, ma se noi inondiamo l'altro di parole, di ragionamenti, del nostro punto di vista, difficilmente riusciremo a suscitare in lui la fiducia e senza la fiducia sicuramente sarà impossibile trovare una soluzione al conflitto. Secondo, ascoltando noi acquisiremo le informazioni utili che ci serviranno a risolvere il conflitto. Molto spesso noi crediamo già di sapere tutto, di sapere non soltanto qual è il problema, ma di avere anche in mano la soluzione. Se invece noi impariamo ad ascoltare, riusciremo sicuramente ad avere un po' più la possibilità di capire il punto di vista dell'altro e quindi acquisire quelle informazioni che ci aiuteranno a trovare una soluzione valida per tutti. Terzo, ascoltando noi smetteremo di vedere l'altro come un problema, smetteremo di guardarlo con la nostra lente, con il nostro pregiudizio. Passeremo dal io contro di te al noi che cerchiamo insieme un obiettivo condiviso che faccia crescere entrambi. Quarto, chi si sente ascoltato è più incline ad ascoltare a sua volta. Difficilmente una persona che non si sente ascoltata e capita cercherà di ascoltare e capire l'altro. Infine, ascoltando riusciremo a trovare insieme soluzioni che l'altro sarà più disposto a cercare di mettere in pratica, di perseguire. Se l'altro sente di aver contribuito alla soluzione del problema, capirà di essere stato valorizzato ed essere trattato con dignità. E allora sarà anche più disposto a mettere in pratica la soluzione che avremo trovato insieme. E se anche ci saranno delle difficoltà, sarà più disposto magari a rinegoziare l'accordo, i termini della soluzione che insieme avevamo trovato, e anche se fallisse qualcosa sentirà di esserne anche lui responsabile e quindi più facilmente sentirà di poter ricominciare in un processo che tenti nuovamente di trovare una nuova soluzione. Quello che è passato alla storia come il miracolo di Boston è avvenuto anche grazie all'ascolto. E allora la prossima volta che ti troverai all'interno di un conflitto, di qualunque tipo, ricordati sempre, l'ascolto ha il potere di fare miracoli. E se il video ti è piaciuto, condividilo con tutti i tuoi amici su Facebook, su WhatsApp, su Telegram, per email, con gli amici degli amici, con i parenti degli amici, con gli amici dei parenti.